Notti insonni, non chiudere gli occhi che stanotte non dormi. Vivi come me e questa volta non torni. Notti insonni, se continua così non si distingue più realtà da sogno, se nel limbo. Notti insonni, non chiudere gli occhi che stanotte non dormi. Vivi come me e questa volta non torni. Notti insonni, se continua così non si distingue più realtà da sogno, se nell'incubo. A volte c'è concesso troppo poco tempo, altre volte passa addosso che neanche lo sento. Non so fermare il tempo come quando il tempo tengo per fissarlo in un pensiero libero. A parole sotto un cielo sempre più nero, da troppo che non vedo il blu, V e piove merda per davvero. E passo notti insonni da una vita tra pensieri intricati come rami contorti, come dita dell'albero del male. Qualcosa mi attanaglia qui nell'oscurità che mi vuole divorare. Venuto al mondo con il fiato corto, tento solo di restare in piedi fino alla fine del racconto, quando sarò un ricordo con una canzone che resiste oltre la fine del mondo. Notti insonni a macinare nel profondo, pensando a come fare a continuare, perché fare per questo che non dormo. E poi mi chiedo perché non ho sonno, ma più trovo risposte e più rimango sveglio. Io non riesco ad accettare e mi tormento. Un dubbio esistenziale martella il cervello, il non senso. Che poi l'ingiusto andare delle cose nelle vite di alcuni, né fiori né rose, solo spine, esperienze dolorose e notti insonni senza fine. Ed infine il game over. Notti insonni, non chiudere gli occhi che stanotte non dormi. Vivi come me e questa volta non torni. Notti insonni, se continua così non si distingue più realtà da sogno, se nell'incubo. Notti insonni, non chiudere gli occhi che stanotte non dormi. Vivi come me e questa volta non torni. Notti insonni, se continua così non si distingue più realtà da sogno, se nell'incubo. Saranno ore che mi rigiro senza un senso. Il letto pare chiodi del fakiro e me è spento. Troppe storie un bel po' contraddittorie, lasciano scorie in testa con dolori che penso. Siamo passeggeri ma non c'è verso, non stanotte, non stamane, sono disperso, immerso nel mare dei pensieri, nuota all'inverso. Ieri dentro l'oggi, l'oggi è già perso. Suore cola sul cuscino, forse sangue in fondo pulsa nella testa come dentro al glande. Fatti e scelte fatte per essere grande mi ha fatto perdere in queste desolate lande. Le lenzuola mi diventano mutande, accendo una abat-jour ma il buio dentro è costante. Faccio un parkour nel posto più allucinante, il mio cervello senza cure che ormai è mutante. Tante di queste notti son fottute in un istante. Se pensi a due o tre storie diventa notti bianche. Ed anche se avessi un medico curante, lui mica entra nella mente, lui vuole il contante. Anche lui pressante, sto mondo è un me stressante. Più la mattina si avvicina più sembra distante. Vuoi una mina perché il sonno sia pesante, ma sta rima resta solo sogno ricorrente. Notti insonni, non chiudere gli occhi che stanotte non dormi. Vivi come me e questa volta non torni. Notti insonni, se continua così non si distingue più realtà da sogno, se nell'incubo. Notti insonni, non chiudere gli occhi che stanotte non dormi. Vivi come me e questa volta non torni. Notti insonni, se continua così non si distingue più realtà da sogno, se nell'incubo.